Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Perdutamente mia, così impaziente. Oggi, tornando a Franco Piantoni, dottore di questo programma, c'è capitano di Coppa Fabio Cantadori in regia. Questa canzone, chi se la ricorda? Io no. Allora, Festival di Sanremo 2008, questa è la canzone vincitrice, Gio Di Tonno e Lola Ponce. Di Gio Di Tonno io non ricordo niente, di lei me la ricordo meglio, diciamo. Ma non è un caso che vi faccia sentire questa canzone, eh? Pardo magari se la ricorda, Pier. Tira nulla. Oh, ci sei? Ecco. Ci sei? Ci sei da Swansea? No. Dove sei? Vabbè, comunque, finisco di raccontarvi questa storia. Sanremo, leggevo prima, mai così male come dati d'ascolto, mica come noi, eh. Mai così male dal 2008 quando vinceva questa canzone. Ma ci sei o non ci sei, Pardo? Hola. Io non sento nulla. Senta, non senti nulla? Vabbè, io ho chiesto nuove linee telefoniche per il mio compleanno, vediamo se arrivano. Ora riproviamo a rifare il collegamento. Però, insomma, 2008, il Milan usciva agli ottavi con l'Arsenal, l'Inter faceva la stessa fine, sempre agli ottavi con il Liverpool, e ve la ricorderete, quel doppio confronto dopo il quale Mancini diede i numeri, vado via di qui, basta, ho finito l'ultimo anno, e poi arrivò Mourinho e da lì cominciarono altre storie. Sempre nel 2008, quando vinceva questa canzone a Sanremo, la Roma veniva eliminata ai quarti dal Manchester United, che poi andò a vincere la Coppa a Mosca contro il Chelsea. Vi ricorderete quel rigore di John Terry. Allora, riproviamoci. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Come vuoi che vada? Benissimo, e tu? Bene, sono sul campo del Liberty Stadium, dove stasera si gioca Swansea-Napoli. Com'è il tempo? Per un paio di minuti. Il tempo è variabile. In questo momento c'è del sole, ma un minuto fa pioveva e penso e temo che per due minuti pioverà di nuovo. Insomma, è così. È così. È un po' la vita, capito? È un po' la metafora della vita. Tutto sì. Può cambiare da un momento all'altro. Sì, come ieri sera in Milan. No, stavo rimembrando, Silvia, rimembri ancora il 2008, quando, perché ho letto che Sanremo non andava così male in TV dal 2008 e allora ho fatto subito parallelo con le coppe. Il Milan usciva con l'Arsenal agli ottavi, l'Inter agli ottavi con il Liverpool. Cioè, Gio Di Tonno e Lola Ponce, tu te li ricordi? Non dirmi di sì, ma non ci voglio credo. Dire una cosa, adesso io non sono un critico televisivo né voglio diventarlo, ma però un po' di algebra, ieri sera solo su Canale 5 la partita ha fatto 5 milioni e mezzo. Fai tu, ma certo. Il 18% di ascolto, più 600.000 su Premium, 750 su Sky, quindi alla fine quasi 7 milioni di persone credo hanno visto ieri il Milan, e questo chiaramente ha tolto qualcosa a Sanremo, ecco. Ma certo, credo che sia è dove voglio arrivare, cioè non fate la guerra, fate l'amore con il calcio e con la Champions League, perché la partita di ieri sera era attesissima, poi al Milan ha detto davvero male e di questo ovviamente voglio parlare con voi. 800 24 00 24, il telefono che sentite è quello di Pardo, che si è staccato perché adesso deve fare un collegamento con Mediaset Premium, magari lo risentiamo in televisione. Insomma, tutto questo, 800 24 00 24, grande happening come al solito. Via. Strade. Niente le strade. Ma allora che succede oggi? Va bene, allora non ci sono le strade, non c'è Pardo, non c'è il collegamento, non ci sono gli ascoltatori. Mi servono invece 4 followers su Twitter per arrivare a 10.000. Oggi non funziona quasi. Pierluigi! Strade, no, vabbè, capisco più niente. convocati. Sostegno c'è De Sciglio, c'è anche Tarat, pallone in verità marocchino, di propria cacata, lì può calciare, parte il tiro, traversa, forse la toccata Courtois. Spazio per impostare De Jong, a destra ancora Tarabt, nel momento la sua posizione De Sciglio, Tarabt va al cross, sotto porta Poli, Courtois mostruoso. Pallone deviato, Balotelli all'interno dell'area di rigore, si gira Balotelli, il tacco per Kakà, parte il tiro, ancora traversa. Attaccato Arda Turan, buono il cross di Abate, cerca l'anticipo palla che va giù, per la è tutto regolare, arriva Siena. Dalla nostra postazione Luca ha la sensazione è netta del calcio di rigore, serie di colpi di testa e poi aggancia il pallone Gabi addosso però a Bonera, arriva Balotelli. Grazie, mi scusi, non volevo essere cattivo, ma d'altronde con lei qualunque argomento uno prende in considerazione si va a sbattere contro la sfiga, lei c'ha la sfiga che la percuote. Ma perché? Ma lasciami stare, sei più sfigato che abbia mai conosciuto, fatti un trapianto del culo, fa qualcosa. Parte Gabi, primo palo, pallone che si pena, attenzione il secondo palo, rete, l'Atletico va in vantaggio, il gol proprio lui, Diego Costa. Dunque, rapido riassunto di quello che è successo ieri sera in una partita, dico me, di lettura molto semplice. Cioè, a parte il fatto che il fattore campi in Europa salta come i birilli, salta come un grillo, quello con la G minuscola, ragazzi, attenzione. Salta come un grillo su tutti i campi d'Europa, ha ragione, a Leverkusen dove il Paris Saint-Germain ha dominato, a Londra dove ieri sera il Bayern Monaco ha ripetuto con i fatti di essere la squadra più forte d'Europa, attendiamo smentite o conferme, ma in questo momento è la squadra più forte d'Europa, è davvero la squadra da battere. A Manchester è saltato il fattore campo l'altro ieri, soprattutto per colpa di un pessimo City più che di un Barcellona non più che normale. È saltato a torto ieri sera secondo me a Milano, che dite? 8-0-0-24-0-0-24, è saltato a torto perché abbiamo visto 45 minuti del miglior Milan della stagione, ma il Milan in questo momento non può essere così se non per un tempo limitato. In quei 45 minuti avrebbe meritato il gol, avrebbe meritato anche un rigore, avrebbe meritato un po' di fortuna o un po' di sfiga in meno. Poi è finita la benzina e nel secondo tempo da squadra grande, adulta comunque, se non grande adulta, l'Atletico Madrid ha vinto con il colpo del suo campione su un errore difensivo del Milan, errore difensivo che il Milan non nega mai a nessuno. Quindi mi sembra che la lettura sia stata questa. Non so se Francesco da Grosseto ha visto un'altra partita o vuole parlare di altro. No, buonasera. Io ho visto la partita e sono d'accordo completamente, io sono tifoso juventino, sono d'accordissimo, in realtà il Milan meritava di più. Io quello che volevo dire è una considerazione, leggendo su Facebook i commenti di molti tifosi interisti, vorrei chiedere se qualche tifoso interista mi ascolta e vuole rispondere, perché i tifosi interisti sono quasi sempre più contenti quando perde il Milan, la Juventus specialmente, le altre squadre, che non in quei rari momenti quando l'Inter vince. Sono sempre a... Ma non credo sia così, perché sono tifosi, ma non ci vedo niente di male in questo. Cioè vale per tutti perché ci si piglia in giro quando le cose girano male agli avversari. Ma senta Francesco, ma secondo lei stasera gioca la Juve, c'è un Antonio che manda un messaggio: Sanremo andrà ancora peggio perché gioca la Juventus in Europa League con il Trebisonda, lo dico all'italiana. Lei che dice? Trabzonspor alla turca. Quanto la sentite questa partita? Quanto la sentite questa partita voi tifosi della Juve? Ma io non sono fanatico, io sono la Juve, se vince sarò contento, se perde io tanto faccio il camionista e domani dovrò continuare a lavorare, ecco, non è che si fa festa perché vince la Juventus, e neanche se vince sono contento, però se l'Inter o il Milan perde in Coppa e vince la squadra spagnola, a me mi dà fastidio, perché sono più contento che la Coppa la rivinca il Milan. Sì, ma... ma Francesco, però lei è un tifoso morbido e quindi come bisognerebbe essere, è un tifoso sportivo, è un tifoso sui generis, se mi permette, perché i tifosi normalmente non sono così, poi ci sono varie declinazioni per pigliare in giro i dirimpettai. Pierluigi Pardo? Ecco, sì, no, volevo dire che stasera la Juve impatterà eventualmente sugli ascolti del TG3 o del TG4, perché sì, alle 7, però sì, Napoli è un, speriamo che faccia ovviamente tanto ascolto. Cosa hai raccontato a Mediaset? Volevo farti sentire attraverso la televisione, ovviamente Oxford non ce l'ho fatto. Oxford Street, momento di radio verità. Andiamo a Oxford Street. Is it okay? I'll know where, but we will find it out. Thanks, mate. Eccoci qua, momento di grande cultura gallese. Che cosa ho raccontato? Che innanzitutto c'è questa cosa del campo che viene condiviso dalla squadra locale, che è una squadra di rugby che va piuttosto bene, che ha vinto 75-7 contro Treviso domenica scorsa. Strano. Questo campo. Strano. Gli Ospreys. E giocano la Celtic League, ovviamente il campionato gallese e inglese, e insomma il terreno è meraviglioso, nonostante il fatto che venga coabitato, diciamo, dal rugby e dal calcio. Sai che da noi c'è sempre qualche polemica su questo argomento. Poi vabbè, il Napoli, il vero tema è capire quanta energia spenderà sull'Europa League, perché qualche tempo fa De Laurentiis, io credo tanto, sai, credo tanto. Io penso il giusto abbastanza, perché qualche tempo fa De Laurentiis aveva fatto capire che gli interessava pochissimo l'Europa League. L'anno scorso addirittura Mazzarri, ricorderete, all'inizio della stagione aveva fatto proprio due squadre diverse, una per il campionato e una per l'Europa League, con Donadel, con Rosati in porta, con tanti giocatori, diciamo, di seconda linea, quelle che erano le gerarchie di Mazzarri. E Benitez però questa Coppa l'ha vinta, se la dovesse vincere diventerebbe il primo allenatore a vincerla con tre club diversi e il secondo allenatore dopo Trapattoni a vincerne tre in carriera, per cui insomma io penso che ci tenga. Ma lui sa come si fa, ci tiene certamente, e sa come si fa, sa qual è la strada, la conosce bene. Heller, ma l'abbiamo detto molte volte, allenatore anche della dei segnali, io siamo nell'albergo del Napoli, insomma c'è grande voglia di recuperare Higuain, che non è al meglio e però dovrebbe farcela, e insomma il fatto che Higuain, che non è al meglio, voglia impegnarsi in una partita come questa, o che al Bioggia cercando in tutti i modi di recuperare dall'influenza, è un segno che c'è il massimo del focus, no, su questa partita. Sì, intanto do una notizia a te che magari la saprai già, e ai tifosi, soprattutto interisti all'ascolto, perché sai, è sbarcato Toir a Malpensa, è tornato Toir, e nel trolley ha portato, sai chi? Vidic. Ha detto al 90% Vidic è dell'Inter per l'anno prossimo. Difensore del Manchester United, non mi pare rientri nei parametri di età, anzi non rientra nei parametri di età definiti dalla nuova dirigenza interista, probabilmente neanche nei parametri economici, li volevano giovani e non tanto costosi, però uno strappo alla regola per Vidic per mettere a posto la difesa si può fare. Dunque Tovira ha detto questo. Giulio, provincia di Milano, buongiorno. Oh, buongiorno Carlo. Buongiorno. Eccomi qua. Dica. Volevo parlare un attimo del Milan. Sì, volentieri. Apro una breve parentesi. Sì. Navigando nel vostro sito, ho visto la sua foto. Siamo quasi gemelli, separati dalla nascita. Chiusa parentesi. Gli ha detto male, Giulio, mi spiace. Mi spiace molto. Specialmente nella tocchinatura. Sì. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, 45 minuti ho visto un Milan che è parecchio che non lo vedevo così. Purtroppo le partite durano 90 e devono darsi da fare. E soprattutto, se vogliamo chiudere il discorso in maniera conseguenziale, le partite durano 90 e bisogna sbatterla dentro per vincere. Diciamo che un po' di sfortuna c'è stata ieri. Sì. Insomma, era un Milan che il primo tempo 3-0 non rubava niente. Beh, 3 è tanto, però. Voglio dire, 3 mi sembra tanta roba, uno ci stava, 2 c'era da fare i salti, 3 vabbè, 3 rientrava nell'ambito del miracolo a Milano, ecco. Ho esagerato, euforico, il primo tempo ero euforico, ho esagerato, chiedo scusa. No, ma... Allora, secondo me purtroppo è stato l'errore anche di Abate, perché è stato un passaggio per loro è nato questo gol, perché secondo me se non ci fosse stato quell'errore la partita sarebbe finita 0-0, poi vabbè, là vediamo. Sì, no, cioè, questo è vero, l'analisi infatti è quella che abbiamo fatto, è come scrive il mio amico Maurizio Corsetti ad esempio oggi su Repubblica, il Milan almeno una volta si concede a chiunque, che sia il Sassuolo o l'Atletico Madrid, e l'Atletico Madrid, visto che è una squadra, ripeto, non so come la pensi Pier, non grande, allora, ma certamente non è una grande squadra, ma è una squadra adulta. No, però io voglio dire questo, che noi non dobbiamo diventare schiavi del risultato. Nel senso che troppo spesso il nostro calcio ha vissuto il problema inverso, cioè si è crogiolato sui risultati che magari in un modo o nell'altro riusciamo a fare, sul colpo di genio o di culo certe volte, e non guardava l'aspetto più complessivo. La partita di ieri secondo me è l'opposto, cioè nella partita di ieri invece noi dobbiamo sottolineare secondo me il fatto che una squadra italiana in evidente affanno in campionato con mille incognite ha tenuto per 70 minuti in scacco e meritava di vincere la partita contro una squadra che sta dominando assieme a Real e Barcellona il campionato spagnolo. Questo è quello che mi porta a casa di ieri. Poi certo, c'è un fatto di qualità sicuramente, perché insomma, senza essere offensivo, però l'errore che porta al gol, se Abate fosse stato in un momento diverso della sua carriera, magari di maggiore fiducia, e se Abbiati fosse stato, non lo so, il Giulio Cesar del 2010 o il Dida di prima del petardo o il Buffon di quasi sempre, però, magari Pier, ci sono troppi condizionali, no, però no, certo, ci sono i condizionali, però voglio dirti che io adesso cercheremo tra qualche minuto, speriamo di avere Arrigo Sacchi con noi, che credo sia un luminare da questo punto di vista, un maestro di calcio, perché io ho visto ieri dei segnali belli, anche certo, in un momento difficile, anche in una squadra che sta faticando tantissimo in campionato e che deve faticare per andare in Europa League, si è vista la voglia di giocare a pallone, e io mi porto a casa assolutamente, questa roba. Assolutamente, ma ti dico, il miglior Milan della stagione, il primo tempo del Milan è stato il miglior Milan della stagione, credo tutta compresa, non solo da quando c'è Seedorf, non credo ci siano dubbi su questo. Quindi, certo, quindi che sia stata una buona partita del Milan è vero, però essendo stata la miglior partita del Milan in questa stagione avendo perso 1-0, ecco che devi fare i conti, devi mettere questo in parallelo con i limiti che sono oggettivi, che sono evidenti. Ci fermiamo per la borsa? Stai lì, non scappare. Parte Gabi, primo palo, pallone che si piena, attenzione, secondo palo, rete! L'Atletico va in vantaggio, il gol proprio lui, Diego Costa. Mi scuso, non volevo essere cattivo, ma d'altronde con lei, qualunque argomento uno prende in considerazione, si va a sbattere contro la sfiga, lei c'ha la sfiga che la percuote. Ma perché? Ma lasciami stare, sei più sfigato che abbia mai conosciuto, fatti un trapianto del culo, fa qualche cosa. Convocati. Allora, io voglio ringraziare pubblicamente il mio amico Roberto Unga, direttore di Riders, che mi ha inviato un sms di conferma di una notizia uscita già stamattina, e cioè infortunio per Marquez, campione del mondo moto mondiale, si è rotto il perone, quindi salterà i test di Sepang, ma non dovrebbe essere a rischio l'avvio della stagione per il nuovo fenomeno spagnolo. Pierluigi Pardo sempre lì a Swansea, ma torni, vero? Non è che dopo aver sentito il dibattito Renzi-Grillo ieri hai deciso di restare in Galles? No, cazzo, già facciamo più. Vabbè. Claudio da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti quanti. Volevo dire, su quanto riguarda la difesa, che ieri è stata la difesa a giocare male, ma il portiere, no? Io ho giocato un porta a livello dilettanti, no? Sì. Ma sull'area piccola, io ero il padrone della mia ragione. Area. Io la penso come lei. Quindi per me per principio, preso, per principio, la palla nell'area piccola del portiere, sì. Ma poi ha preso anche un gol sulla sua, cioè, voglio dire, era sul palo, lui era già piazzato, non aveva altro che tornare indietro, urlare e prendere quel pallone, dovrebbe mangiare la sua difesa. Secondo me ha sbagliato. Guardi, non so, allora facciamo così, interpretazione autentica della questione, cioè il professor Arrigo Sacchi. Buongiorno. Non sono professore, sono dottore. Se me lo permette la chiamo professore. Fa lo stesso. Senta, ma l'errore, stiamo disquisendo su quell'errore difensivo che ha costato la partita al Milan. C'è un responsabile o c'è un reparto o c'è un'amnesia o c'è semplicemente un po' di sfortuna in tutto quello? C'è un responsabile, che è la stanchezza. C'è la stanchezza. però non fisica e mentale. Sì. Questo vuol dire che quando non sei abituato a giocare partite con questa intensità, questo ritmo, con questa attenzione, con questa concentrazione, è evidente che poi prima o poi paghi. Pierluigi Pardo è tornato. Pierluigi, sei lì? Sì, sì. Hai sentito Arrigo Sacchi? C'è il responsabile alla stanchezza. Sì, vorrei capire, insomma, io un po' se lo conosco, penso che anche lui abbia apprezzato comunque la mentalità positiva che si è vista in campo, allora, ieri sera. Non so se il bicchiere è mezzo pieno o se è un modo per assoltersi e smuotersi un po', non so cosa ne pensi. No, io credo che sia una partita che abbia dato a Seydorf dei risultati positivi. Intanto lui ha dimostrato una certa elasticità e capacità, perché è riuscito a dare un equilibrio a una squadra squilibrata e quindi per la prima volta si è visto per almeno 55 minuti una squadra. E questo è molto positivo. Poi quando c'è una squadra è chiaro che è più facile per i giocatori fare vedere i propri pregi e trascondere i propri limiti. Allora si è visto questo ragazzo Tarabat che ha fatto cose che non ci si aspettava nella disposizione proprio di connessione con la squadra. Diciamo. Kaká per 60 minuti ha espresso forse una delle sue migliori partite, il ragazzino Poli ha dato vitalità a questo centrocampo che prima era abbastanza anemico. Insomma, ci sono state cose molto positive. La sfortuna è quella che è il nome che in genere si dà all'abilità altrui. La fortuna e la sfortuna è la stessa cosa. Possiamo dire che però è un Milan che dura appunto 60 minuti, cioè il Milan è stato il migliore della stagione, tutta la stagione compresa, però pur essendo il miglior Milan della stagione è una squadra a termine, che ha una data di scadenza precisa. Ma guardi, i miracoli fa il Signore, così speriamo tutti. Gli allenatori non sono dei maghi, quindi la fatica può essere non solo fisica ma anche mentale, eh? Questa è una squadra che quest'anno ha avuto sempre dei problemi di attenzione, di concentrazione, e quindi dopo è difficile dopo pensare di poter in partite ancora più complicate, ancora più difficili, dove la tensione sale, avere per 90 minuti lucidità. Può capitare, però io credo che sia stato fatto un grosso passo avanti, si è vista luce. Con una squadra difficile, perché ha tanti giocatori che sono molto bravi individualmente ma che fanno fatica ad avere la coscienza della collettività. Sì. Io comunque Arrigo, ma per il ritorno, visto che insomma ieri mi pare di aver capito che hai apprezzato l'atteggiamento più equilibrato tatticamente della squadra, al ritorno con la partita nella quale bisogna rimontare, è sempre quella secondo te la fisionomia più logica? Cioè, comunque l'equilibrio il Milan in questo momento non ha alternative. Io devo dire che avevo scritto proprio un articolo ieri mattina sulla Gazzetta e dove invitavo Seydorf a usare l'intelligenza che lui possiede e un'elasticità mentale con un adattamento a quella che è la situazione di forma, di condizione fisica, tecnica, tattica e di caratteristiche e di funzionalità di questi giocatori. E lui l'ha fatto, perché in realtà ieri ha giocato con un 4-4-2 e non è solo per questo, ma ha messo a centrocampo e in difesa tutti i giocatori che hanno la coscienza della collettività, che quindi formano una squadra. Gli unici due che fanno fatica con la squadra, che però hanno grande talento, sono Kaká che sostituisce questa carenza con una grande entusiasmo, volontà, una grande quantità di corse e una grande abilità, e Balotelli che è un giocatore che ti può estrapolare in qualsiasi momento una giocata vincente, ma che non ha nel suo palmarès né la continuità dell'azione né tantomeno la capacità di connettersi con la squadra e di smarcarsi nei tempi giusti. Sì. Però un giocatore con soluzioni e con capacità individuali così elevate, no, che certo, uno può anche fare un po' di astinenza in, sì, questo caso, no? Arrigo, però dà la sensazione sempre che in questo Milan o segna lui, magari in maniera estemporanea, magari in maniera geniale, o non segna nessuno, perché il Milan fa una fatica dannata comunque a trovare il gol, salvo Balotelli. Beh, ieri no, non ha dato, perché se tu ti ricordi bene, Poli, ha, certo, fatto, sì, ha fatto Poli, Kakà, certo, Poli e Kakà, ha fatto una traversa e ha sferato un'altra e Poli ha colpito un palo. Poi sai, non puoi pensare di risolvere tutti i problemi in poco tempo. Io direi che già ieri sera se ne sono risolti tanti. L'ultimo problema è quello del gol, e quello viene per ultimo. Intanto bisogna risolvere tutti gli altri problemi che ci sono, che non sono ancora risolti. Però ieri c'è stata così, si è aperta una breccia, si è aperta una luce. Adesso anche per Seedorf, che ha dimostrato l'utilità, ha dimostrato elasticità, perché non ha giocato con, per esempio, tutti pensavano che Poli giocasse come esterno di destra, che giocassero ancora un 4-2-1, sì, invece hanno giocato esattamente un 4-4-2. Un'ultima cosa da parte mia, allargando il discorso a questo strano turno, strano primo turno di ottavi, dove il fattore campo è volato per aria. Io ho visto una squadra di grandi solisti guidata da Ibrahimovic e ho visto una squadra che in questo momento mi sembra francamente imbattibile, che è quella che ha vinto ieri sera a Londra con l'Arsenal, il Bayern di Monaco. Dunque, io devo dire che faccio fatica a capire una partita, due non le posso, non riesco a vedere, sì, contemporaneamente, e quindi ho visto solamente il Milan. Conosco però perfettamente il Bayern perché l'ho visto tante altre volte, e conosco il mio amico Pep Guardiola, che è un grandissimo allenatore. Anche di là c'era un altro ottimo allenatore, ma c'è differenza tra grandissimo e ottimo. E per quanto riguarda i risultati a sorpresa, beh, relativamente, perché non scordiamoci che in casa giocano le seconde, che vuol dire che sono peggio delle prime, e fuori casa giocavano le prime. 9-0 infatti per ora. 9-0. E quindi hanno confermato di essere le prime. Sì, con alcune delusioni come quella del Manchester City, che non so come valuta. Ma lui era seconda. Sì. Arrigo, ma un'ultima cosa da parte mia. In Europa League spesso la sensazione è che sia mancata la voglia alle italiane. Sarebbe triste scoprire che non ci manca la voglia, ma ci manca la qualità per poter vincere, per poter andare avanti. Che sensazioni hai per Juve, Napoli, Fiorentina e Lazio? Cioè, pensi che se ci impegniamo a tavoletta possiamo fare cose importanti in questa competizione? Siamo un popolo incredibile, perché quando non vinciamo facciamo come la volpe con l'uva. Allora, tu sai che l'Europa League prima si chiamava Coppa UEFA. Benissimo, noi dal 88-89 così fino al 2000, su 11 competizioni mi sembra che siamo stati in finale 10 volte. Sì, vinciamo sempre noi. Vincendole. Poi non ci siamo più andati né in finale né in semifinale. Allora abbiamo detto, perché l'abbiamo snobbata, e prima non la snobbavamo. Perché questo cambiamento di tendenza? No, non era quello. Contemporaneamente, in quel periodo siamo andati in 10-12 anni, mi pare, 8 volte in finale di Coppa dei Campioni. Adesso, se voi guardate negli ultimi 5-6 anni, io credo che ci siamo andati una volta in finale di Coppa dei Campioni. No, è evidente che il campionato italiano, che era basato prevalentemente, e non con tutte, ma abbastanza con tutte, più sulle individualità e sui debiti che sul gioco, nel momento che ha fatto meno debiti perché non ne poteva più fare, si è messo in difficoltà, si è creato un gap, che non è stata sostituita né dalle organizzazioni societarie di alto livello né tantomeno da un'organizzazione di gioco e da un collettivo, perché quando dicono non ci sono, abbiamo troppo pochi soldi, io ricordo che il Borussia Dortmund ne spende molto meno di quanto ne spende verissimo. E con risultati sicuramente migliori. Verissimo. Quindi sostanzialmente ha ragione Capello, in parte il campionato italiano non è più allenante. Non ha centrato una cosa Capello, perché cioè? Lui dice che è un campionato non allenante, però in questo campionato non allenante, in quest'Italia non allenante, succede questo, che chi gioca un calcio diverso, e sono segnatamente le nazionali, negli ultimi due anni hanno partecipato a 4 competizioni europee con i giovani e con la prima squadra, arrivando in 3 in finale. E allora? E allora c'è qualcosa che... È vero. C'è qualcosa che non va. No, ma allora io penso che sull'Europa League il problema sia soprattutto di impegno allora... e di agonismo. Secondo me se la facciamo bene, con la voglia di vincerla, e non la consideriamo una rottura di scatole, come il problema... Allora, credetemi, io purtroppo, spero di non continuare perché faccio fatica, purtroppo in questi 4 anni che sono il responsabile delle nazionali giovanili, mi sono cuccato qualche cosa come 500 partite internazionali, perché ne facciamo da 100-120 tutti gli anni, e quindi ho visto bene come giocano in Europa, se mai avevo un dubbio, e come giochiamo in Italia. Per noi il calcio in generale è ancora uno sport individuale, tanto che quando non segniamo diciamo che bisogna comprare un centravanti, non diciamo mai che bisogna migliorare il gioco. Uno sport specialistico in un'età globale, uno sport difensivo, quando i padri fondatori l'hanno creato come uno sport d'attacco. Giochiamo, in poche parole, un calcio contrastante con tutta l'Europa, dove sono abituati tutti ad attaccare, perché sono tutti convinti che avere la padronanza del pallone e del gioco ti dia più possibilità. Noi, che in generale siamo abituati a subire, li mettiamo nel loro habitat naturale. E quindi, avendo meno qualità individuale oggi noi, non riusciamo, mettendo loro nel loro habitat naturale, a imporci, a essere competitivi con loro. Certo. E per fare questo però bisognerebbe che ci fosse un ambiente interno, per ambiente interno parlo dell'Italia in generale e quello della società, più sereno, più tranquillo, e che pianificasse di più a lungo tratto. La qualcosa purtroppo la vedo dura, la vedo duretta. Allora ti rimane che cosa? Ti rimane solamente di fare quello che abbiamo sempre fatto, arroccarci, sperare nel singolo, in un errore altrui, oppure lamentarci per qualcosa. Grazie Arrigo Sacchi. Grazie professore, prego, arrivederci. Grazie Arrigo Sacchi. Questa è la lezione di sì. Calcio e filosofia è stata, eh? Esatto. Tutti convocati. Quello, Max, che poi parliamo anche di Carolina Kostner, di questa attesa per, speriamo, una medaglia olimpica alle 16 sul ghiaccio, poi andremo a Sochi da Maria Pia Vas Beltrán, eccetera eccetera, anche se Carolina Kostner ha sempre avuto qualche problema con la pressione, nel gestire la pressione. Servirebbe Sacchi come mental coach, guarda che cosa ti dico Pierluigi. Regaliamo sì, Sacchi come mental coach a Carolina Kostner. Per esempio il passaggio su Balotelli è piaciuto tantissimo, perché sì, la valutazione che Sacchi ha dato di Balotelli è non ideologica, no? Cioè, noi spesso nelle valutazioni di un Balotelli lo giudichiamo moralmente, lo giudichiamo ci sta simpatico, ci sta antipatico, invece Sacchi dice che è un giocatore, dice che anche Kakà è un giocatore che fatica a connettersi con il resto della squadra, ma è aiutato da un enorme spiato e da un grande talento. Sì. E Balotelli ti sta spiegando i difetti, che sono una difficoltà nello smarcarsi, nell'essere decisivo, ma un talento individuale che lo porta a essere di fatto irrinunciabile. No, secondo me è Balotelli spiegato, no? Sì, no, ma è così. Balotelli spiegato a mio figlio. Esatto, è una è la valutazione di un giocatore e non di un baraccone da circo. Esatto, non del circo Barnum, ma di un giocatore di calcio, ed è quello che dovremmo fare. Saluti tu il bomber. Mosca Ball, Moscardelli, benvenuto, come stai? Ciao, tutto bene. Ciao, molto Mario. Bene, senti, tra l'altro parliamo di Bologna-Roma, però tu sei testimonial di un'iniziativa di tutta la settimana importante alla quale hanno aderito le varie associazioni, sì, la Fondazione Cannavò contro l'omofobia, con questi lacci che indosserai nel match contro la Roma per dire no a qualsiasi forma di intolleranza. Esatto. Sei felice di questo ruolo? Insomma, è una battaglia di civiltà che ovviamente credo appoggiamo tutti. Sì, sì, assolutamente felice, anche perché è un bel messaggio secondo me, e poi sono felice visto che sono seguito da molti giovani, di dare soprattutto a loro questo messaggio e far conoscere questa. Ma il mondo del calcio è machista? Sai che si parla molto adesso dei diritti ovviamente degli omosessuali, che poi i diritti degli omosessuali, aggiungo io se mi permettete, sono identici ai diritti degli eterosessuali, cioè è un principio di libertà che vale per tutti indipendentemente da che cosa ti piace fare nella vita, no? Sì. Esatto. È un mondo machista questo, è un mondo un po' chiuso, quello del calcio italiano, del calcio in generale, dove è difficile diciamo esprimere un punto di vista così progressista? Ma sì, lo è già nel mondo, diciamo tra virgolette, così normale, e quindi nel calcio ancora di più. Adesso speriamo che magari nel tempo si possa modificare queste cose, però vediamo adesso se questo messaggio verrà accolto in maniera positiva, come sembra che si stia facendo. Vediamo se qualche altro giocatore aderirà a questa cosa dei lacci e saremo tutti contenti. Io ho visto prima una foto di Lucchetta che invece ha già aderito a questa iniziativa. Anche il Basket Sassari, cioè... No, qualcosa di bello. Senti, ma Bomber, volevo chiedere, invece appunto sì, è di estrema attualità questo discorso, quale messaggio sta uscendo invece secondo te da Sochi, dalle Olimpiadi di Sochi? Ma penso che sia un messaggio anche lì un po' analogo a queste cose, ci stiamo concentrando soprattutto su queste cose, un po' meno sullo sport tra virgolette, anche perché lo sport si fa parlare da solo, poi siamo contenti quando l'Italia può prendere una medaglia e quindi poi il messaggio principale poi alla fine è sempre quello che va bene, però come sottofondo diciamo ci sta anche quell'altro. Senti, Bologna-Roma come la vedi? Tu fra l'altro, se non sbaglio, hai anche una simpatia umana, no? Per la Roma, dichiarata, insomma, però tecnicamente, lasciando da parte i sentimenti, che partita è? Ha dei punti deboli questa squadra, come la affronterete? Ce l'avrà anche, ma sono pochi, sarà a noi soprattutto fare una partita quasi, sicuramente dovremo fare una partita perfetta, una squadra pazzesca, la Roma sta facendo benissimo, quindi sicuramente sarà dura per noi, però ce la giochiamo, facciamo la nostra partita, sappiamo che sarà dura e quindi dobbiamo giocare con la mente libera, cercare di fare il massimo e avremo tutto da guadagnare soprattutto. Senti, un'ultima cosa, Bomber, abbiamo analizzato prima con Arrigo Sacchi il Balotelli giocatore e dicevo è molto difficile separare Balotelli giocatore dal Balotelli Circo Barnum. Come lo vedi tu questo fenomeno mediatico? È un tipo che ti piace o è un tipo che anche no? Balotelli giocatore assolutamente sì. Poi il Circo Barnum meno. No, meno, non so lui se ha colpe lui, perché diciamo è un ragazzo che è giovane, che si comporta fuori dal campo come meglio crede, e magari sono troppo i giornalisti che ne parlano e mettono in risalto anche una cosa semplicissima, però giusto perché la fa Balotelli viene esaltata, sì, hai ragione, senza motivo. Secondo me è quello il problema suo, quindi magari agli occhi di qualcuno può sembrare anche antipatico, ma non so quanta colpa ha. Certo, grazie Bomber, grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao a voi. Ciao Davide, ciao. Moscardelli, ciao Pierluigi Pardo. Non ciao, prendere ragazzi, freddo stasera a Swansea. Barba, bisogna chiedergli la barba. Stasera canale 5, proprio un calcio. Swansea Napoli, perché il San Paolo è il San Paolo, anche quando gioca in trasferta. Ciao Piero, a domani. GR. Questo caso, il vantaggio è che io conosco Swansea e non è un vantaggio per la partita, è un vantaggio per spiegare ai miei giocatori che sarà difficilissima. Ho visto che nei prossimi 52 giorni, compresa una partita della nazionale, i calciatori saranno impegnati per 16 partite. Ciò significa che giocheranno ogni 3 giorni. Questo significa che dovremo essere pronti tutti tutta la rosa al completo. Una squadra ordinata, un po' assomiglia, per dare qualche informazione in più ai nostri giornalisti, una squadra assomiglia molto a Grasshoppers, non ha grosse individualità se non in un paio, fa un gioco molto veloce, ordinato, sono molto abili sugli esterni. E vedremo di mettere in campo soprattutto una parte, spero, di giocatori che hanno giocato domenica, e fare una giusta miscelanea in maniera da avere anche forze fresche. Bisogna anche valutare bene attentamente le condizioni di quelli che andranno in campo. La nostra volontà è quella di passare il turno. Tutti convocati. 800240024, ho una gran voglia di parlare con voi, poi parliamo anche, andiamo anche a Sochi per sentire che succede da quelle parti. Franco Piantarelli, abbiamo tagliato i 10.000 followers su Twitter, traguardo tagliato, grazie. Cesare da Torino, buongiorno. Voglio parlare anche di derby, se possibile. Derby, come no? E questa volta lo vinciamo noi. Dopo 19 anni, noi inteso Torino, dopo 19 anni. Abbiamo i gemelli del gol dopo 30 anni. Eh sì, l'altro giorno l'ho detto a Graziani e lui mi ha detto: no, piano un attimo, piano, Cerci, Immobile, bravi, ma Graziani pulisce altra cosa. Comunque, no, grandissimi, due eccezionali giocatori. Diciamo, Graziani pulisce in chiave moderna, rivisitati, sì. Hanno caratteristiche diverse, però stanno facendo... Sì, sì. Ha sentito Cairo l'altro giorno qui da noi? Sì, io l'ho sentito perché ero in macchina, poi è calzata l'idea. Sì. E volevo parlare proprio con lei di questo. Così se diciamo noi, il Conte si arrabbia, ma non solo lui, sì. Anche Madorlini, Donadoni e pure Mazzari. Sì, è importante che sia contento Ventura, che sia contento lei, poi che si arrabbi chi ne ha voglia, insomma. Si merita di più. No, ma l'altro giorno ha detto cose, Cairo ci ha detto cose interessanti, nel senso che come ovvio per Ventura non c'è problema, si va avanti, non si capisce quanto, però è un matrimonio destinato a durare, ma soprattutto ha detto cose importanti su Cerci Immobile, cioè... Immobile, come sapete, è a metà strada, no? tra il bianconero e il granata, perché a Torino, Juventus e Torino, gli affari li possono fare, e io gli ho detto Torino non è l'Inter, quindi in quel caso gli affari valgono, e gli ho detto ma c'è un accordo per tenerlo ancora un anno con questa formula della comproprietà al Torino, in modo da farlo giocare, valorizzarlo, eccetera eccetera. Quanto a Cerci, ho detto no, Cerci ho già pagato, è tutto mio e mo tengo, vediamo se andrà così a fine stagione. Fabio, provincia di Brescia. Carlo, ciao. Ciao. Ciao. Saluto anche Pardo, grazie per la convocazione. Grazie a te. Programma stupendo, volevo dire due parole sul Milan e sentire un vostro parere. All'inizio, la stagione non ero deluso dal Milan, perché sapevo che comunque si andava incontro a una stagione un po' fallimentare. Però a questo punto c'è poco da salvare, penso, perché... ma anche a livello societario mi sembra che i programmi non siano chiari, manca un po' tutto e ma non lo so, secondo me Fabio, c'è stato il culmine dici? Meno male che la primavera ci ha dato una piccola soddisfazione, anche se comunque a livello di giovanile, sai, sì. Poi il calcio, ma guarda, io ti dico la verità, non sarei così depresso se fossi in te, cioè la situazione mi sembrava molto più confusa, molto, molto meno stimolante, molto più deprimente qualche tempo fa. Adesso si capisce grosso modo quale sarà il futuro a medio termine, dove si vuole andare, si è preso l'allenatore che comunque ha il compito di chiudere questa stagione con un occhio proiettato sulla prossima. Secondo me non è tutto da buttare, ad esempio quelli che sono arrivati adesso, ieri sera erano ottavo, ce n'erano tanti in campo di quelli che sono arrivati ora. ASN, che chiaramente non è un giocatore proiettato sul futuro, Tarabt, che sta sorprendendo un po' tutti, abbiamo sentito, ha sorpreso anche Arrigo Sacchi, insomma, De Sciglio, che poveretto si è fatto male un'altra volta, però se ne parla poco, ma secondo me è davvero il miglior prodotto espresso al settore giovanile del Milan negli ultimi tempi. Insomma, qualche lampo di speranza magari per il futuro ci può essere, non sono in previsione grandi spese, e questo mi sembra noto, anche se io credo che qualche giocatore, Berlusconi a Seedorf, finirà per regalarlo. insomma, il Milan ieri sera ha vissuto, secondo me, la miglior serata stagionale, la più incoraggiante senz'altro. Detto questo, se vivi la miglior serata stagionale e perdi 1-0 in casa, è chiaro che le cose non vanno benissimo. Più che altro dovrebbe provare a chiudere in maniera dignitosa, salvando l'onore, la dignità, uso queste parole tanto care ai tifosi che a me non piacciono tantissimo, però in maniera insomma coerente la sua stagione in campionato, perché è lì che il Milan francamente ha fatto schifo, diciamocelo, basta leggere la classifica, quella classifica non è dignitosa per il Milan. Piero, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi volevo riallacciare, adesso sono tifoso Juventus, mi volevo riallacciare a quello che aveva detto Fardo, che è una buona base di partenza. Il Milan, io non ho visto la partita ieri sera, il Milan ha giocato, però ho perso. Io mi riallaccio, io faccio il parallelo con la Juve. La Madrid in 10 il secondo tempo ha dominato, e in casa col Galatasaray uguale, prima partita in Danimarca, cioè, nonostante questa una piccola squadra, 35 tiri in porta, però passano gli altri. Sì. Io penso che, cioè, gira di gira, ragione Conte, sono il parco giocatori, molti ingaggi, quelli che fanno la differenza in Champions League. Sì, ho capito, però Piero, non possiamo dire che i danesi, vabbè, Galatasaray mi sembra una discreta galleria di anziani, molto costosa per la verità, però è quello che è, non possiamo dire no, colpa del bilancio, queste cose. La Juventus ha fallito in Coppa perché aveva un girone facile, e ricordiamo che il girone che si gioca comunque, è vero, su un lasso di partite ristretto, però non è una sfida secca. Non, secondo me non bisogna cercare nemmeno giustificazione alla Juventus. La Juventus ha avuto un piccolo grande fallimento, il primo delle racconte in Champions League, e questo è quanto. Secondo me non c'è moltissimo altro da aggiungere, a meno di non voler trovare mille scuse, secondo me inutili, che non attaccano. Facciamo salta soci, ragazzi. Soci 2014. Ciao Maria Pia Vals Beltran. Ciao. Ci sei? Sì. Ci sono, io mi sento bene. Bene, molto bene. Com'è la situazione lì con gli atleti ucraini, eccetera? Un po' di casino. Allora, stiamo cercando di capire quanti effettivamente si siano ritirati e abbiano intenzione di ritirarsi. Cosa certa è che oggi è stato un minuto di silenzio in casa ucraina, proprio per ricordare le vittime, sì, che vengono riportate anche qui a Sochi, per quanto riguarda gli scontri nella loro nazione. Certamente ieri c'è stato il primo episodio con due atleti dello sci di fondo che non hanno voluto partecipare, e formalmente i motivi addotti sono quelli dell'infortunio. Pare che una di loro infatti avesse problemi alla schiena. Oggi invece un'altra atleta ha dichiarato, utilizzando Facebook, di non voler partecipare ai giochi proprio in segno di protesta per quanto sta succedendo nel suo paese, quindi contro il presidente ucraino. Si tratta di Mazzocca, che doveva competere nello sci alpino. Sì, secondo me vale la regola per cui in certe situazioni così difficili, così complicate anche emotivamente, è giusto che ognuno prenda la decisione che vuole, magari anche dichiarandolo e non nascondendosi di fronte a infortuni. Anzi, se quelli che hanno personalità dicono ok, non me la sento, torno a casa, non voglio in queste condizioni, in questo momento, in questo clima gareggiare, secondo me ne ha tutte le ragioni, è una scelta secondo me matura. È stato proprio il pensiero che ha dato anche Sergei Bubka, che è l'attuale presidente del Comitato Olimpico Ucraino, ex recordman nel salto con l'asta, il quale ha appunto twittato il cordoglio innanzitutto nei confronti delle vittime. Ha ricordato il fatto che la pace olimpica, come era stata pensata dagli antichi greci, doveva proprio interrompere qualsiasi attività bellica nel periodo delle Olimpiadi, e ha comunque capito il fatto che gli atleti possano sentirsi non competere. Ha detto i miei atleti decidono di non partecipare, io lo decidono loro. No, bravissimo, esatto, infatti Buca è un grandissimo, non solo uomo di sport, ma credo anche personaggio politico, perché si tratta di questo. Invece, passando a noi, tocca alla ragazza alle 16, no? Sì, ragazzi, siamo tutti con il fiato sospeso, perché da come l'abbiamo vista pattinare ieri, parliamo ovviamente di Carolina Kostner, abbiamo tutti davvero tantissima speranza che non solo arrivi la medaglia, ma possa arrivare anche il tanto atteso oro italiano, perché sono pochi decimi che la separano dalla coreana attualmente in testa, e quindi ovviamente incrociamo le dita, e se pattina come lei sa fare, secondo me questa sera davvero ne vedremo delle belle. Sì, sperando che non senta troppo la pressione, perché questo questo sarebbe un film già visto. Per chiudere, Maria Pia, ho letto, confermerai la Fontana portabandiera cerimonia finale? Di chiusura, esatto, sì. Domani competerà nei 1000 metri tentando di raggiungere le 4 medaglie olimpiche, sarebbe una cosa veramente storica dopo i 3 successi ormai conquistati in questa edizione dei giochi. Sarà lei a portare la bandiera nella cerimonia di chiusura di domenica. Benissimo, ci sentiamo dopo nei GR per sentire come va Carolina Costner. Grazie, ciao Maria Pia. Ciao a tutti, ciao. Un abbraccio. Franco Piantrini, autore di questo programma, Fabio Cantedoni in regia, con tutti i convocati. Ovviamente ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Forza Cristo, 2:06:29, il secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, primo Zöggler, sicuramente medaglia, Armin Zöggler. Arianna, che sei l'ultimo giro. Dai Arianna, che l'argento si può fare. Arianna Fontana, argento. 2:45:20, il tempo da battere in diretta per passare al comando per Christophe Hinner, perché arriva, abbiamo una medaglia di bronzo, incredibile, impensabile, con Christophe Hinner. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sfruttare il tuo sprint. Zushi Marianna, chiudi e lanciati. Zushi Marianna, è bronzo, seconda medaglia olimpica per Arianna Fontana. Ah! È caduta Arianna sul cambio. La Corea ha allargato molto. L'Italia è terza. Andiamo a bronzo anche in questa occasione. Comincia quindi questa staffetta mista. Buona nel quarto. E buona nel quinto. Aiuti. E l'Italia si prende la medaglia di bronzo. Yes!